Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi, per introdurre il tema della nostra riflessione mattutina, scomoda addirittura Winston Churchill, che diceva: l'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. E già questo ci potrebbe aiutare a capire in quale profilo cadiamo, ma di questo ci occuperemo in un'altra occasione. La domanda da cui invece prende spunto la nostra chiacchierata di oggi è: in questa nuova fase, come dobbiamo guardare al futuro? Pessimismo oppure ottimismo realistico? Partiamo da qui. E oggi abbiamo il piacere di farci accompagnare da Daniel Lumera, scrittore, formatore, esperto delle scienze del benessere e qualità della vita, oltre che riferimento internazionale nel campo della meditazione, e fondatore del metodo My Life Design. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo da qua. Come dobbiamo guardare il nostro futuro? Con quale atteggiamento mentale? Io credo che l'atteggiamento mentale in questa fase sia fondamentale, faccia la differenza. Normalmente l'uomo comune ha bisogno di una dimensione del futuro e per moltissime persone questa dimensione è diventata estremamente incerta oggi. Per tanti non esiste speranza di ritornare alla situazione di prima. Ed è possibile che in questa incertezza l'angoscia prenda il sopravvento, la depressione. Per questo occorre che ognuno di noi diventi protagonista di questo presente, faccia leva su competenze, talenti e anche solidarietà. L'ottimismo di per sé non ci salverà, però le idee e le azioni determinate da un'attitudine, da uno sguardo ottimista, per me faranno la differenza. Se mi si chiede di scegliere tra pessimismo e ottimismo realistico, io dico sempre: ricordiamoci che ottimismo e pessimismo non sono come il bianco e il nero, tra i due esiste un'infinità di livelli intermedi. Una persona tendenzialmente ottimista può esserlo di più in una circostanza e meno in un'altra, a seconda di tutte le variabili che influenzano il giudizio che abbiamo sugli eventi. Però questo diverso modo di interpretare la realtà, quindi essere pessimisti o ottimisti, è stato oggetto innanzitutto di tantissimi studi scientifici, però nel 2011 c'è un'interessante serie di test neuroscientifici condotti da un team anglo-tedesco che ha cercato di comprendere perché gli ottimisti riescono a mantenere una visione positiva del futuro anche di fronte a situazioni e informazioni negative che invece dovrebbero spingerli a una visione pessimistica, nefasta della vita, come a molti sta accadendo in questo periodo. E la risposta sembra essere nel meccanismo attraverso cui la nostra mente, o meglio la mente dell'ottimista, accoglie e integra tutte le nuove informazioni che stanno arrivando. Nella mente di un ottimista le notizie positive trovano ampia accoglienza, mentre quelle negative vengono integrate solo in parte. Quindi gli ottimisti hanno la tendenza a selezionare le informazioni in base al loro potenziale migliorativo e tendono a escludere dalla propria visione del futuro quelle che risultano indesiderabili. Quindi il consiglio è quello di diventare selettivi, soprattutto con le informazioni in questo periodo che hanno un potenziale migliorativo. Quindi tutto si gioca a livello della mente, ma cosa succede nella mente di un ottimista? Qual è la differenza tra la mente di un ottimista e quella di un pessimista? E soprattutto, come questi due atteggiamenti influenzano e sono determinanti nella qualità della nostra vita in questo periodo, come lei ricordava, così delicato di ricostruzione della realtà? Una realtà che è individuale ma necessariamente anche collettiva. Ma partiamo da una considerazione, quindi che tutti gli studiosi hanno notato che la presenza di ostacoli nel raggiungimento di obiettivi dà risultati diversi a seconda della predisposizione mentale, ottimistica o pessimistica. Quindi se la persona ha un atteggiamento fiducioso, positivo, farà dei tentativi per superare l'ostacolo. Se invece ci orientiamo totalmente sul dubbio relativo al risultato dei nostri sforzi, non avremo la stessa determinazione ed efficacia e tenderemo a lasciar perdere con maggiore, sicuramente maggiore predisposizione a frustrazione e stress. Gli studi hanno evidenziato come gli ottimisti, ad esempio, abbiano una maggiore probabilità di completare gli studi universitari, non perché siano più capaci degli altri, ma perché riescono ad essere più motivati e quindi più perseveranti. L'ottimista si impegna di più, quando c'è da colmare uno svantaggio. In questo periodo faranno la differenza gli ottimisti. C'è un famosissimo studio di Seligman del 90, che sopravvive agli anni, dove sono state coinvolte diverse squadre di nuoto universitarie. E nell'esperimento gli allenatori chiesero agli atleti di gareggiare al massimo delle loro capacità. Però al termine della gara, comunicando i risultati, gli diedero falsi sulle performance. Cioè fecero credere ai nuotatori di averci messo 2 secondi in più. E quindi i nuotatori furono chiamati, dopo poche ore, a una seconda gara. E i risultati tra ottimisti e pessimisti furono sensibilmente diversi, perché i pessimisti furono in media, credo, l'1,6% più lenti della prima performance, mentre gli ottimisti migliorarono dello 0,5%, cioè nuotarono più velocemente. Questo vuol dire che gli ottimisti tendono a utilizzare il fallimento o la crisi come risorsa e come opportunità per fare meglio, mentre i pessimisti si scoraggiano e si arrendono più facilmente. Per questo credo che sia così importante in questo momento, delicatissimo, un atteggiamento di ottimismo, però ottimismo realistico. Lei parla di ottimismo realistico. Il 13 settembre 1940 gli aerei tedeschi bombardarono Londra, colpendo anche Buckingham Palace e aprendo molti squarci sulle mura. E quando la regina Elisabetta si recò sul posto per verificare di persone i danni, con irresistibile humor britannico esclamò: "Sono contenta che ci abbiano bombardato, adesso finalmente posso vedere chiaramente l'East End". C'è una frase che dice: "Sia ottimisti che pessimisti contribuiscono alla nostra società". L'ottimista inventa l'aereo e il pessimista il paracadute. Allora, qual è secondo lei il giusto equilibrio, ma soprattutto qual è la differenza tra ottimismo illusorio a questo punto e ottimismo realistico? Come si fa a distinguerli? È molto importante distinguere ottimismo illusorio da ottimismo realistico. Il primo, quello illusorio, è un ottimismo che può esporci a pericoli e che deriva da un meccanismo di negazione, di fuga dalla realtà, sicuramente da un'incapacità di stare nelle difficoltà, saper stare nelle difficoltà. È nella natura delle emozioni negative che ognuno di noi sperimenta ogni giorno. L'ottimismo realistico invece non nasce da un meccanismo di difesa, di rifiuto o di fuga, ma al contrario nasce dalla capacità di focalizzarsi sulle opportunità che ogni crisi per sua definizione contiene, attraverso un ascolto profondo di sé, della realtà così com'è, accogliendola. È infatti importante, io credo molto importante, sottolineare che un eccesso di ottimismo illusorio, è deleterio tanto quanto un eccesso di pessimismo. Ed è fondamentale prendere consapevolezza che il punto non è che siamo immuni dai pericoli, dalla sofferenza e dalla cattiva sorte. Il nostro senso però di responsabilità deve rimanere vigile, deve impedirci di compiere delle scelte che sono palesemente azzardate o che negano la realtà. Come a dire che, insomma, questo ottimismo realistico, e dobbiamo sottolineare realistico, ci salverà in questa fase di cauta ripresa. Ma allora, sul tema ottimismo sono stati condotti oltre 14.000 studi solo su PubMed, che evidenziano per me delle scoperte che sono straordinarie, dimostrano che non solo chi ha un atteggiamento ottimista tende a trasformare le difficoltà in opportunità, a trovare soluzioni alternative, a avere un migliore problem solving o un pensiero laterale, ma anche la creatività, la perseveranza, sicuramente ha un'attitudine che porta più successo lavorativo, migliora le relazioni sociali e anche lo stato di salute. Per esempio le neuroscienze oggi hanno dimostrato che chi coltiva l'ottimismo è in grado, ad esempio, sia di alleviare la percezione e la gestione del dolore fisico. Ci sono tanti studi molto interessanti sull'effetto placebo, che un ottimista accoglie meglio e invece un pessimista, drammatizzando, avendo la tendenza a drammatizzare la situazione, peggiora le condizioni. Però ci sono studi molto interessanti anche sull'ansia, quindi provare meno ansia, anche durante un'esperienza di crisi o di una malattia. E poi altri studi interessantissimi riguardano invece i casi di perdita del lavoro, molto attuale questo tema. Ad esempio, certo, le persone ottimiste sono in grado di mantenere un maggiore livello di soddisfazione personale, legata anche alla più marcata percezione di supporto relazionale, familiare, di fiducia nelle proprie risorse. Ci sono due ricerche che mi hanno colpito particolarmente e che insieme a Immaculata De Vivo, che è una professoressa di Harvard, luminare nel campo della ricerca della genetica del cancro e docente di Harvard, abbiamo raccolto insieme in un libro che si chiama La biologia della gentilezza, che uscirà tra pochissimo a giugno, il prossimo 3 giugno, che ha riportato gli effetti dell'ottimismo sul DNA, sull'invecchiamento cellulare e sulla longevità sia di donne che di uomini. Abbiamo pochi minuti prima di salutarci e vorrei chiederle, prima di tutto, un aiuto per chi è nato pessimista. Cosa può fare? Deve rassegnarsi ad una vita più difficile, forse anche più breve, solo perché gli è toccato in sorte un determinato carattere? E poi le chiederei anche rapidamente di aiutarci, come facciamo in ogni nostro appuntamento, con magari una pratica, un esercizio per migliorare il nostro ottimismo. Abbiamo proprio una manciata di secondi, ma ce la possiamo fare? Benissimo, allora l'ottimismo è un atteggiamento che non solo si può imparare, ma come un muscolo può essere allenato, consentendoci di cambiare la visione della vita. Le strategie che si possono applicare nella vita di tutti i giorni sono molteplici per imparare a essere ottimisti, per esempio praticare la gentilezza, oppure la meditazione o percorsi di consapevolezza che ci aiutino a scegliere intenzionalmente attraverso quali prospettive guardare il mondo. Gli studiosi calcolano che l'ottimismo sia un tratto determinato geneticamente solo per il 25%, mentre il resto è frutto delle relazioni sociali e del lavoro che possiamo fare su noi stessi. Se io dovessi consigliare alle persone di un esercizio pratico e semplicissimo per migliorare l'ottimismo, direi: iniziamo dalla gentilezza, per esempio. Cioè, quando ho iniziato personalmente la pratica della meditazione seriamente nel 93, mi hanno spiegato che affinché la mia vita potesse essere migliore bastavano 3 atti di gentilezza disinteressata ogni giorno. Questa è una sana abitudine: uno verso un essere umano, uno verso un animale e uno verso una pianta o un vegetale. Quindi io direi: iniziamo dunque dalla gentilezza. Mi piace molto. Grazie per essere stato con noi. Grazie, è stato un piacere. Alla prossima. Io vi aspetto come sempre a mezzogiorno, subito dopo il GR delle 12, per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Anita Panizza in assistenza, Laura Vanossi in redazione e Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica. Grazie anche a loro. Ci sentiamo dopo mezzogiorno. Un saluto e una buona giornata da Nicoletta.